6C. Ascolta e rispondi. Vi sentite bene? Sì, ci sentiamo bene. Vi incontrate domani? Sì, ci incontriamo domani. Vi servite da soli? Sì, ci serviamo da soli. Vi affrettate? Sì, ci affrettiamo. Vi affacciate? Sì, ci affacciamo. Vi sposate presto? Sì, ci sposiamo presto.